fero, e qual affanno turba il seno del tuo volto. Osia deve morir. E questo il tuo dolore? Forse ne fosti amante? Sì, il vero, per amare un sol cuore, e questo è di Zanaida. Vivi e spera, già il mio furor in parte nella morte d'Osira, e forse in quella d'Argipancor s'estingue. Vivi e spera, che forse avranno i dei pietà della tua fe, dei dolori miei.